mi rivolgo a voi che rendete il vostro culto alla Dea Maria. Quindi mi rivolgo a voi mariani che rendete il culto a colei che è la madre di Gesù, ma che voi avete divinizzato rendendola corredentrice, avvocata, dispensatrice di tutte le grazie e mediatrice tra Gesù e voi. Infatti voi vi rivolgete a Maria per accedere a Gesù, la pregate del continuo, pensando che lei vi ascolti da dov'è, perché Maria è in cielo, pensando quindi che lei vi ascolti e che porti le vostre preghiere a Gesù. E secondo appunto il vostro pensiero, sicuramente le preghiere che Maria porta a Gesù non saranno rifiutate da Gesù. Poi naturalmente voi vi aspettate da Maria ogni sorta di grazia. Infatti vi recate ai tanti santuari che ci sono anche in questa nazione. Vi andate a prostrare davanti ad una statua o un'immagine che la rappresenta e la pregate chiedendo questa o quell'altra grazia. In definitiva voi vi appoggiate a Maria e voi diciamo la considerate la vostra salvatrice, cioè colei che vi apre la porta del cielo. Voi agli occhi di Dio dovete sapere questo: siete degli idolatri perché? Perché adorate degli idoli. Infatti le vostre statue, le vostre immagini, per le quali voi andate in delirio durante le varie processioni, dovete sapere che queste cose sono degli idoli. Idoli condannati da Dio, vietati da Dio. Infatti è scritto, e questo è uno dei comandamenti che Dio diede sul monte Sinai a Israele: non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi, come potete vedere, la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, condanna le vostre statue e le vostre immagini. Sono cose che non si devono fare. E non solo voi le fate queste immagini, queste statue, ma vi prostrate dinanzi ad esse, le servite, offrite infatti loro un servizio. E dunque dovete sapere che quelle immagini, quelle statue, agli occhi di Dio sono degli idoli e voi siete degli idolatri perché correte dietro a questi idoli che, come dice la Sacra Scrittura, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non rende alcun suono. Ecco, voi andate dietro a degli idoli muti e li dovete portare proprio perché non camminano, hanno dei piedi però non camminano e quindi li dovete portare in processione. Peraltro il Dio mostra diciamo, la sua disapprovazione verso il vostro culto a Maria, facendo cadere spesso delle statue che la rappresentano o delle immagini. Quelli sono giudizi di Dio, sappiatelo, sono giudizi di Dio contro quegli spauracchi dei vostri idoli. Dunque voi siete degli idolatri. Voi adorate e servite la creatura anziché il creatore che è benedetto in eterno. Affidate la vostra salvezza a una donna che è in cielo con la sua anima, ma che non può ascoltarvi, non può vedervi, non può fare alcunché per voi. Ma voi, ingannati dai vostri preti, siete dediti a questo culto idolatrico, un culto idolatrico che vi sta menando in perdizione. Sì, perché gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Gli idolatri, quando muoiono, vanno all'inferno. Sì, vanno all'inferno. Ascoltate, guardate che gli idolatri che già sono morti e che adoravano e servivano la Dea Maria, guardate che sono all'inferno. Se potessero tornare in vita, vi griderebbero a voi mariani quello che io vi dico, di ravvedervi e di convertirvi dagli idoli muti all'Iddio vivente e vero. Sì, quindi gli idolatri vanno all'inferno, perché gli idolatri sono dei peccatori, sono degli schiavi del peccato e quindi meritano di andare all'inferno. Il purgatorio non esiste, sappiatelo voi che adorate la Dea Maria, quello è un altro inganno in cui siete caduti. Il purgatorio è un'invenzione dei cosiddetti padri della Chiesa, esiste solo il paradiso e l'inferno. E voi state andando all'inferno, non lo sapete, ma io me lo dico, state andando all'inferno. Ciò che vi aspetta a voi idolatri è il tormento nelle fiamme dell'inferno. Vi aspetta un orribile fine, una terribile fine. Ma io sono qui per annunziarvi l'Evangelo. Perché vi annunzio l'Evangelo? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Vi annunzio dunque l'Evangelo perché, credendo nell'Evangelo, l'uomo viene salvato dai suoi peccati, viene affrancato dal peccato per la grazia di Dio e non solo, viene anche giustificato. Dunque vi annuncio l'Evangelo esortandovi a credere in esso affinché credendo in esso voi siate salvati e giustificati. L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo della grazia di Dio, credendo nel quale l'uomo viene salvato, giustificato e riconciliato con Dio e credendo nel quale ottiene la vita eterna, quindi viene strappato alle fiamme dell'inferno. Quindi questa è la ragione per cui vi annunzio l'Evangelo, perché il Signore me l'ha comandato e perché sono mosso dall'amore di Cristo affinché veramente, perché il mio desiderio è quello di vedervi salvati, vedervi nella luce e non più nelle tenebre fitte nelle quali voi siete in questo momento, perché voi siete nelle tenebre, voi siete tenebre, voi state camminando nelle tenebre, voi non avete la luce, perché andiate dietro gli idoli muti. Ravvedetevi, ravvedetevi, abbandonate i vostri pensieri iniqui. Smettete di pensare che quegli idoli, quelle statue, possano farvi del bene. Questi sono tra i pensieri, appunto, che voi avete, abbandonateli. Non è in potere di fare alcunché di bene o di male in quelle statue di marmo, di gesso, di pietra, di legno, di ferro e così via. Abbandonate questo pensiero che vi porta appunto ad essere devoti a questi idoli. Ravvedetevi, cambiate modo di pensare e convertitevi. Quindi abbandonate gli idoli, abbandonateli, e quelli che avete, che sono di vostra proprietà, distruggeteli e andate a portare i resti alla discarica. E poi naturalmente credete nell'Evangelo, perché la salvezza, il perdono dei peccati, la giustificazione e la vita eterna si ottengono per grazia, credendo nell'Evangelo. Quindi io vi ho avvertiti, mariani, io vi ho avvertiti, siete degli idolatri agli occhi di Dio. Se persevererete nella vostra idolatria, voi andrete a finire, quando morirete, all'inferno, ve lo assicuro. Però vi ho anche mostrato, vi ho anche annunziato la via della salvezza, che è la via della fede. Infatti vi ho esortato a credere nell'Evangelo. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, sappiatelo. Quindi è in grado di salvarvi se credete nell'Evangelo. Altrimenti sarete condannati, perché la Scrittura dice: ma chi non avrà creduto sarà condannato. E vi ho detto la condanna che vi aspetta. Vi ho spiegato il tormento che vi aspetta all'inferno. Ma badate, poi nel giorno del giudizio, quando risusciterete in risurrezione di condanna, vi aspetta un altro luogo di tormento, che è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, o fuoco eterno, dove sarete gettati dopo essere passati davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le vostre opere. Voi sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, perché la parte degli idolatri sarà là. Sarete gettati là, dove sarete tormentati nei secoli dei secoli. Quindi considerate il vostro culto alla Dea Maria, alla vostra Dea Maria, dove vi sta menando. Vi sta menando alla perdizione. Vi sta menando al tormento eterno. Ravvedetevi dunque, convertitevi dagli idoli muti all'Iddio vivente e vero e credete nell'Evangelo di Dio. E Dio avrà misericordia di voi, vi perdonerà, vi salverà, vi giustificherà e vi darà la vita eterna. Chi ha orecchi da udire, oda.